questa storia bellissima. Avrei dovuto chiedere anche a te cosa cercavi da me. Avrei saputo darti quel che volevi, bastava soltanto chiederlo. E forse avrei dovuto crescere un po' per somigliare più a te. Ma per questo volo impossibile io non aspettavo che te. Mi fanno confondere e a volte fai fatica a credere che non torneranno mai più. Poi nella stanza buia sposto lo sguardo ricercando un'immagine. Inutilmente cerco un punto d'appoggio ma sprofondo più giù. C'è che questo tempo è un po' instabile e ne resta poco per me. Non so dove cercare se non da te.